You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Indovina chi viene a cena ancora una volta. Questo film degli anni 60 in bianco e nero ci introduce con la sua musica i temi del film, che sono sì quelli del cibo, cosa aspettiamo a metterci a tavola, quello delle culture, del pregiudizio, dell'integrazione. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare l'Italia, la nuova Italia. Oggi indovinate chi viene a cena a Radio 24. Io do subito il buon pomeriggio al nostro ospite Hamid Zeharati. Esatto. Buon pomeriggio a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Zeharati è uno scrittore nato a Teheran proprio negli anni in cui tra l'altro usciva negli Stati Uniti questo film. Chissà se in Iran qualcuno l'aveva visto. Con Einaudi ha pubblicato diversi libri, tra cui Salam Mamam, che era il primo, Il meccanico delle rose, adesso da poco Quasi due. Innanzitutto, che cosa cuciniamo oggi con lei? Ma diciamo che io adoro il piatto che teoricamente è il piatto nazionale dell'Iran, è horme sabzi o koresh horme sabzi, che è un piatto a base di riso cotto a vapore, e il sugo, che è appunto questo horme sabzi, che viene preparato con la verdura e significa proprio verdura cotta, verdura, carne, fagioli, limone secco. Un nome innanzitutto che spaventa, perché è difficilissimo, sì, da dire. Parecchio, sì. Effettivamente ha questa lettera B, molto gutturale e impronunciabile per gli italiani. È un riso appunto con delle verdure che lei fa anche a casa. Ho letto che era, almeno era, se non è ancora, un cuoco. Sì, diciamo che tra le mie varie attività per un certo periodo ho aperto anche una gastronomia multietnica, dove a rotazione facevo venire cuochi di varie nazionalità e ogni giorno della settimana cucinavano cibi medio orientali o nordafricani, prevalentemente anche cibi persiani erano sempre presenti. Ho letto che appunto nella sua vita ha fatto diversi lavori come elettricista, idraulico, assistente universitario e ingegnere, perché è laureato al Politecnico di Torino, no? Dove è arrivato quando aveva quanti anni? Io sono arrivato in Italia il 6 dicembre dell'80. 81, il 26 dicembre, cioè 20 giorni dopo, ho compiuto 15 anni. Quindi da adolescente ha vissuto il periodo della scuola e dell'adolescenza in Iran, in quegli anni così particolari. E poi come mai è venuto in Italia? Ma diciamo che l'artefice del mio arrivo in Italia è stata mia sorella, la prima della famiglia, che ha deciso di andare via dall'Iran all'estero per studiare medicina, in particolar modo ginecologia. Successivamente, proprio durante la rivoluzione, è venuto via anche mio fratello, anche lui con l'obiettivo di studiare medicina, infatti è diventato un medico internista. E con l'avvento della guerra nel settembre dell'80 e vari problemi di salute che ho avuto io, sono riuscito dopo circa un anno a ottenere il visto di uscita dal paese, perché all'epoca ero un soldato papabile per partire per la guerra tra Iran e Iraq. e mi hanno fatto di tutto per, insomma, prendermi per i capelli, per inviarmi qua dei miei capelli, per farmi curare e soprattutto per inchiodarmi qua di modo che non tornassi in Iran per andare alla fronte. Che genitori sono stati i suoi genitori? Sì, guardi, io da questo punto di vista sono molto orgoglioso di aver avuto due genitori. Mio padre era un analfabeta, cioè faceva il tassista ma sapeva leggere solo i numeri. Le vie i nomi delle vie e delle strade di Teheran le sapeva solo a memoria, non sapeva leggere assolutamente i cartelli stradali. Mia madre invece era una donna dal carattere fortissimo che da autodidatta ha imparato a leggere e scrivere, scriveva come una bambina di primo anno di elementari, ma adorava la lettura. Entrambi avevano capito che l'unico modo che avevamo per fare una vita migliore rispetto alla vita che avevano passato loro era quello di studiare, laurearci e, diciamo, conquistare una posizione sociale differente, un po' differente rispetto a loro. È da loro che ha imparato a cucinare? Dalla mamma? Sì. Le ricorda quindi la sua famiglia? Io più piccolo, ed essendo nato a distanza di 7-8 anni rispetto ai miei fratelli, ho passato, diciamo, la mia infanzia prevalentemente a casa con mia madre, che ha smesso proprio di lavorare quando sono nato io, perché voleva godersi i figli come non avevo potuto fare mentre erano bambini miei fratelli, perché lavorava. E quindi ero il suo mascotte, mi utilizzava per andare al cinema, al mercato, al bazar a fare compre. Tanto è vero che con una sorta di trucco è riuscito a scrivermi persino un anno più tardi a scuola rispetto agli altri bambini, scrivendomi sia a scuola privata che pubblica, così che nessuno potesse venire a chiamarmi per mandarmi a scuola. C'è molto dello sguardo del bambino nei suoi libri, non solo nell'ultimo, Quasi due, in questo gioco dei colombi che viene fatto, un gioco popolare a Teheran, che viene fatto da questo ragazzino iraniano, ma anche nel primo romanzo, è la storia di Ali, di un bambino che vive nell'Iran degli anni 70, no? Sì, diciamo due motivazioni fondamentali. Uno, perché io ho vissuto quegli anni proprio con lo sguardo da bambino e da adolescente. Due, perché i bambini e adolescenti riferiscono le cose senza dare un loro giudizio e quindi per far giudicare ai lettori la situazione che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, ho preferito utilizzare nel primo caso un bambino, nel secondo caso un adolescente, per raccontare le vicissitudini iraniane. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. Went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on. Vi starete chiedendo che musica è la colonna sonora di un film di animazione di qualche anno fa di Persepolis. È un film d'animazione che è stato tratto da una graphic novel di Marianne Satrapi. La conosceva Zerati? Sì, come no? Lo conosci questo film? Non conosce le Satrapi, anche perché siamo... Forse la più famosa iraniana che è uscita, fuoriuscita dal paese, che parla dell'Iran, no? Sì, abbiamo vissuto più o meno lo stesso periodo storico in Iran. Io sono venuto via dall'Iran un anno prima rispetto a lei. Io ho avuto la fortuna di vivere con i miei fratelli che mi hanno fatto da genitori, mentre lei ha avuto purtroppo una vita più travagliata, perché è finita in un collegio e, insomma, nei suoi bellissimi racconti e fumetti riesce a esprimere a pieno questo suo malessere sia in Iran che poi all'estero. A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storia, una vita da bambina. Andavo pazza per le patatine con il ketchup. Bruce Lee era il mio eroe preferito e avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia. I cattivi pagheranno per i loro misfatti. Abbasso lo scià, abbasso lo scià, abbasso. Margie, a letto, subito! In 2 anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi. Il velo è sinonimo di libertà. Pensa al tuo futuro. L'Europa ti aspetta. E l'Europa mi aspettava, ma non proprio come immaginavo. Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Grüngasse. Sei già stata a letto con qualcuno? Beh sì. Ed è stato bello? Dipende con chi. Come? Sei stata con più d'uno. Rising up, back on the street. La donna con la borsa a tracolla. Smetta di correre. Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti. Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti, come dire... E voi evitate di guardarmi il culo! E questo era il trailer, quindi un assaggio del film di cui abbiamo parlato, il quale, ha detto Satrapi, arriva in parte dalla storia orale del suo paese. Anche i suoi libri partono spesso da lì. Diciamo che quando ero bambino io, di canali televisivi ce n'erano solo 2 in Iran. E cominciavano le trasmissioni più o meno verso le 4 del pomeriggio, facevano una mezz'oretta o 3/4 d'ora di cartoni animati per i bambini, poi per il resto c'erano telegiornali e un paio di volte alla settimana c'erano un paio di film. E quindi noi siamo cresciuti, la mia generazione è cresciuta grazie alla radio e soprattutto grazie ai racconti la sera. Io ricordo di aver passato, di essermi addormentato più volte con mia madre, mio padre, che mi raccontavano delle storie, ma non solo dei racconti, ma anche racconti familiari, le varie avventure che avevano vissuto loro, avevano vissuto altri parenti o amici, piuttosto che da solo nel letto. E questo è stato, diciamo, una fonte di ispirazione, credo sia una fonte di ispirazione per tutti gli iraniani che si dedicano alla scrittura oppure alla narrazione sotto varie forme, che siano cinematografiche o animate. Sentiamo adesso un passaggio proprio di questo film d'animazione che ho trovato su internet. Nonna, sei qua? Sì, sono venuta a trovarti. Ma guarda un po', ti sei messa tutta in gingheri. Sei innamorata per caso? Sì, avevo appuntamento con lui a Valley Jordan. È stata dura. I guardiani della rivoluzione stavolta mi avrebbero portata dentro. Hai visto come sono truccata? Ero incastrata, non sapevo che fare. Poi mi sono ricordata del tipo che mi guardava le chiappe. Lo sai come sono quelli. Il solo modo di cavarmela era fare la povera ragazza indifesa. Fratello, fratello! Sì, sorella. Un uomo mi ha fatto delle proposte indecenti. Dov'è questo disgraziato? Gli tappo la bocca una volta per tutte. È là, sui gradini, è lui. Non ti vergogni? Non hai una madre? Non hai una sorella? E se te le insultassero? Ai! Ma non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Lo giuro sulla testa di mia madre! E che cosa gli hanno fatto? Lo hanno portato dentro. Lo trovi divertente? Sì. Tu no? Io trovo che sei una grandissima stronza. Ecco cosa penso. Ma nonna, lo sai bene, non avevo scelta. Sì? Sì che ce l'avevi. Tutti ce l'hanno. Tutti hanno sempre una scelta. Zerati, tutti hanno una scelta, dice la nonna della protagonista. Esattamente. Possiamo vivere in modo indifferente la nostra comoda vita in Occidente, oppure possiamo decidere di denunciare ciò che avviene nel nostro paese, nella nostra patria, grazie a un governo e una situazione dittatoriale. La scelta che ha fatto Satrapi, la scelta che ho fatto io, è una scelta che hanno fatto tantissimi altri autori che vivono all'estero, è proprio quello di denunciare al mondo questa situazione varie forme, mentre ci sono tanti altri autori iraniani che hanno scelto di rimanere in Iran, per esempio il regista Panahi, e combattere dall'interno pagando il prezzo più caro. Face to face, out in the heat, hanging tough stand. They stack the odds till we take to the street. For we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. در بستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو. Siamo con Hamid Ziarati, scrittore che di origini iraniane ha scritto in italiano per Einaudi diversi libri, l'ultimo è Quasi Due, pubblicato l'anno scorso. Ziarati, quando le ho chiesto che musica potevamo mettere, mi ha indicato questa, di cui appunto ci sono diverse versioni che si trovano anche su YouTube. Come mai? Guardi, è una canzone critica e nello stesso momento abbastanza pieno, colmo di affetto nei confronti dei propri compagni di scuola. Nella poesia in cui è tratta chiede l'aiuto a un compagno di classe cui i nomi di entrambi è stato segnato sulla lavagna nera. Ho letto che l'Italia è la terra che ha ereditato dai suoi figli. È una bellissima espressione. Lei si sente italiano per eredità, quindi, dei suoi figli, che sono italiani? Sì, guardi, è una domanda che spesso mi fanno se mi sento più italiano o iraniano. La mia risposta è sempre mi sento più un essere umano, in quanto aver conosciuto, avendo avuto la fortuna di poter conoscere e approfondire due culture millenarie, a livello umano mi hanno fatto crescere tantissimo, dandomi la possibilità di avere due punti di vista differenti sullo stesso argomento. Ho ereditato la mia nazionalità iraniana dai miei genitori e ho ereditato la mia nazionalità italiana dai miei figli. Cosa ne pensa di questo dibattito abbastanza attuale sulla cittadinanza, sullo ius soli? Secondo me è la cosa più corretta che ci sia, anche perché tanti ragazzi, figli di stranieri, nascono in Italia, vivono con i loro compagni italiani e acquisiscono una cultura che prevalentemente è quella italiana. La nazionalità è una questione culturale, non è una questione di sangue, secondo mio parere. E che impressione le ha fatto il fatto che appunto che sia stato scelto un ministro dell'integrazione nero, non di colore, come ha detto giustamente la nostra nuova ministra dell'integrazione, Khienge? Mi sembra la cosa più naturale, visto che gli stranieri contribuiscono circa il 10% del PIL italiano. Lei si è mai sentito oggetto di pregiudizio, magari nei primi anni in cui era in Italia, era un giovane adolescente e quindi anche più ricettivo forse alle cose che le venivano dette della sua origine? Guardi, io quando sono arrivato in Italia gli stranieri ce n'erano pochissimi. Quindi forse era più facile. Sì, eravamo all'inizio degli anni Ottanta, al massimo i miei compagni di classe avevano conosciuto qualche tedesco o qualche olandese in spiaggia in Liguria, nulla a che vedere con un iraniano. Ovvio che c'era un po' di diffidenza all'inizio quando si instaurava qualsiasi tipo di rapporto. Una cosa che ho subito capito che l'unico mezzo che avevo per difendermi dall'ignoranza era il linguaggio e saper parlare correttamente. E ho cercato in tutti i modi di usare questo strumento. Però ho letto che nel primo anno di liceo in Italia aveva 5 in italiano e latino. È così? Sì, sì. Beh, sì. Era appena arrivato, mi verrebbe da dire, quindi abbastanza normale. Mesi ho dovuto passare praticamente il biennio sui libri. libri, chinato sui libri a studiare l'italiano continuamente e latino. Per fortuna andavo benissimo nelle materie scientifiche, quindi alla fine dell'anno i professori hanno avuto clemenza, mi hanno abbassato i voti nelle materie scientifiche per alzarmi quelle in materie letterarie e non rimandarmi. Beh, insomma, diciamo che è stato chino sui libri per qualcosa, visto che si è così appropriato della lingua italiana da scrivere dei libri in italiano. Quando e come è tornato in Iran? E esiste una nostalgia forte, immagino, per il suo popolo, la sua cultura, la sua terra? Io sono l'unica volta che sono tornato è stato nel 1991, a distanza di 10 anni che ero venuto via, e ho trovato un Iran peggiorato in tutti i sensi, perché in quei 10 anni la Repubblica Islamica si era radicato, la guerra tra Iran e Iraq era da finita un paio d'anni, e quindi i martiri, 1 milione di morti durante la guerra, erano diventati il pretesto e sono tuttora il pretesto per portare avanti qualsiasi tipo di politica dittatoriale. Ho trovato anche culturalmente completamente differente l'Iran e lo vedo tuttora, tutt'oggi tra gli iraniani. Tanti valori si sono persi, tante amicizie sono diventate amicizie apparenti e non più come erano una volta, insomma. Però immagino che abbia, quando è andato, ha avuto l'occasione di sentire i profumi, i gusti della sua terra che, come ci raccontava, ancora oggi, insomma, vengono utilizzati da lei come da tutte le persone che sono lontane dal paese d'origine come un modo per combattere la nostalgia, mi verrebbe da dire. Ci sono anche delle ricette di pesce, ho visto nel suo primo libro, quando si parla del Capodanno iraniano, e quindi c'è una connessione, lei questo gusto per la cucina lo ha infilato anche nei suoi libri. Sì, perché la cucina è fondamentale. Uno dei miei obiettivi quando avevo deciso di aprire una gastronomia era proprio quello, visto che era difficile trasmettere la conoscenza della nostra cultura attraverso le parole, ho tentato di, insomma, prendere gli italiani per la gola, insomma, utilizzando i nostri piatti tipici per farli comprendere che anche nelle altre culture, nonostante la cucina italiana sia la migliore del mondo, anche nelle altre culture esistono dei piatti. E com'è andata quell'avventura? Diciamo che tra l'attività di scrittore e l'attività di ingegnere, quello doveva essere un terzo lavoro, ma era talmente impegnativo che era diventato il primo lavoro. E dopo un anno e mezzo circa ho deciso di gettare la spugna perché non ce la facevo più proprio. Va bene, allora noi invece diamo la ricetta di oggi che ci è stata regalata dallo scrittore Hamid Zerati. Gourmet Sabzi, per 6 persone. 1,5 kg di agnello disossato tagliato a dadini, una cipolla, prezzemolo e cipolla tagliati finemente, coriandolo, 1/3 di tazza di olio, 1 cucchiaino di curcuma, 2 tazze d'acqua, 1/2 tazza di succo di limone, 3 tazze di fagioli, 12 tazze di spinaci tagliati finemente, una patata a dadini, sale e pepe. Fate appassire la cipolla a fuoco medio-alto. Quando è dorata, aggiungete la curcuma e dopo 1 minuto anche la carne. Dopo aver fatto cuocere superficialmente la carne, abbassate il fuoco. Aggiungete poi acqua, fagioli, spinaci, erba cipollina, succo di limone, sale e pepe e coriandolo secondo i gusti. Coprite e lasciate cuocere per 1 ora. Controllare durante la cottura e, se si desidera, aggiungere altra acqua e succo di limone. Servire con riso basmati. La puntata termina qui, io ringrazio il nostro ospite, buon appetito e buon pomeriggio. Buon appetito e buon pomeriggio a tutti. In regia Roberto Scaltritti, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.